La scimmia e il leopardo, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. In due tende, con grandi cartelloni, alla fiera facevano affari d'oro la scimmia ed il leopardo. «Eccomi a loro», diceva costui. «Signori, io son quel celebre artista di cui parla tutto il mondo». E la mia pelle gaglietta, maculata sopra e sotto a nodi e a rotelle, si piacque al re che alla mia morte ha detto vuol farne uno stupendo manicotto. La gente accorre, ammira, fa la bestia sul volgo un certo effetto, ma guardate una volta ognun si ritira. Nell'altra tenda, intanto anche la scimmia annuncia i suoi miracoli. Entrin, signori, e veda anche smorfie. Il mio vicino non ha la grande varietà che nel pel ricamato a geroglifi, ma la scimmia, signori, ha nello spirito l'arte che ridere la gente fa. Bertuccina, nipote di Bertuccia, rival di Scaramuccia, scimmia cesarea, in barca arriva, in carrozzino, a piè, per far piacere e per rispondere a chi l'interroga. Ella nel cerchio entra e si snoda, e balla e parla, e ascolta e ride e canta, non per 40, né per 50 soldi o per 100, ma per la misera moneta di un baiocco, e a chi par caro la porta si rende il suo denaro. Avea ragion la scimmia, e che m'importa se alcuno è ricco e stupido nel lapido che porta? Di belle idee tu fa che sia lo spirito adorno, e fra le genti avrai fortuna. Non basta avere un abito bizzarro che molti signori che somigliano al leopardo e che hanno tutto il talento appiccicato al panno e agli orli del tabarro. Fine della favola La scimmia di Leopardo. Questa registrazione è di dominio pubblico.